c'è bisogno di fly in questo mondo di guai. C'è bisogno di fly anche dentro l'hi-fi. C'è bisogno di fly in questo mondo di guai. C'è bisogno di fly. Domatrice di leoni, semiabbindoli nel circo delle tentazioni. Babilonia di quattro stagioni, schizzano gli ormoni sul tuo dorso. Pensieri come burattini senza fili quando sfili per il corso. Io pedone sulle strisce dei tuoi sguardi, comperato dalla luce dei diamanti dai tuoi occhi. Muovi tu gli scacchi, regina contro fanti. Ma se a caccia di fantasmi se mi schiumo 10 grammi. Hai le retine degli uomini in possesso, ma scimmiato da un cipresso la natura mi congela. E mi fa fesso, il tuo pacco è la mia tela. Tu lo sai che sono un ragno e ci camminerò come un atleta. La tua patata è come un ago, sono un sarto che si punge quando brucia il tuo rigamo. Sfugge dal richiamo perché bolle nello svago. Arrotoli i tuoi pacchi con lo spago e chi li slega è solo un mago. C'è qualcosa che va oltre il tuo grano fecondo. È la mia coltre, domina il tuo mondo e gioca in fondo. Sfoggia un'altra volta i tuoi pacchi di gloria. Qualcosa che va oltre il tuo grano fecondo. È la mia coltre, domina il tuo mondo e gioca in fondo. Sfoggia un'altra volta i tuoi pacchi di gloria. Ma nel mio alveare ogni smania si ingoia. Le tue forme sono soltanto ombre che confondo nell'ete tra le onde. Come Caronte, traghetto fra le sponde. Fino alla fonte nessuna mi risponde. Mimetica come un camaleonte, mi solletica il tuo alito. Cerchi di fumo madido, mosaico la mia fronte, mille gocce. Seguo le mie impronte, un ologramma statico da panico. Si infiamma quando passi dalla frutta al dolce. C'è qualcosa che sublima ogni enzima, forse il clima e non ti vado. Guardo un altro fiume con lo sguardo da lombrico. Giro intorno al tuo ombelico, se smollico ogni tuo invito. Come Arianna porti il filo, te abbendata incontrollabile, ma terrassabile e tritata. I tuoi pacchi sono sacchi fatti della stessa iuta. Dentro la stessa muta sei formicolio e come una piuma. Danzatrice zuccherata, ricoperta di melassa, mandi fissa, sei come Melissa prima. Qui si eclissa la tua maglia con il collo a V. Io ritorno nello spim e tuoi puntini sulle I. C'è qualcosa che va oltre il tuo grano fecondo. È la mia coltre, domina il tuo mondo e gioca in fondo. Sfoggia un'altra volta i tuoi pacchi di gloria. Ma nel mio alveare ogni smania si ingoia. Le tue forme sono soltanto ombre che confondo nell'ete tra le onde. Come Caronte, traghetto fra le sponde. Fino alla fonte nessuna mi risponde. C'è qualcosa che va oltre il tuo grano fecondo. È la mia coltre, domina il tuo mondo e gioca in fondo. Sfoggia un'altra volta i tuoi pacchi di gloria. Ma nel mio alveare ogni smania si ingoia. Tette, tette, tette, trolli, trolli, tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, ogni ora, gangster, gangster, toccagli le tette, gangster, gangster, scrivigli il tuo nome sulle tette, mettigli i tuoi soldi nelle tette, finché non resti al verde, grida tette, tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, tette, voglio ancora tette, tette, ogni ora, gangster, gangster, toccagli le tette, gangster, gangster, scrivigli il tuo nome sulle tette, mettigli i tuoi soldi nelle tette, finché non resti al verde, grida tette, tette, contaminato dalle tette, mille diavolette, buffette mi mettono in manette, mi alzo dal mio letto, le ciabatte, il pane a fette, il latte saponette, ma mi mancano le tette. A guardarmi bene se rimbalzo io ce li ho, me le palpo, me le tocco, barabagi, bugi, ciò. Canto insieme ad Ivano, sullo scooter vedo tette, nel computer vedo tette come quelle di Peggio. Non voglio più la tipa, non voglio più la figa, mi tolgo anche una costola, mi metto la parrucca e poi divento io la tipa. Cosa pensavi Ina? Ascolto Fabri Fibra, mi lecco tutto quanto, anche le scarpe della fila. A scuola sul diario del mio amico scrivo tette, rimango nudo in classe e trito un'altra sedicenne. E dopo vado a rolling, in macchina controlli, la tipa non la molli, trolli, trolli, trolli. Gangster, gangster, toccagli le tette, gangster, gangster, scrivigli il tuo tuo nome sulle tette, metti i tuoi soldi nelle tette. Tette.